All'amor tuo, fanciulla, altro amore io preferia. È un ideal l'amante mia, a cui detti braccio e cor. Il mio core aborre sfida i potenti della terra. Il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppressor. Perché amiamo l'uguaglianza, ci han chiamati malfattori, ma noi siamo lavoratori che padroni non vogliamo. Dei ribelli sventoliamo le bandiere insanguinate e innalziamo le barricate per la vera libertà. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò. E nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò.